bella figlia, dov'è il mio trono? Non son più padre, più re non sono. La sorte è barbara, non ha più affanno, non ha più fulmine, i cieli grano. Esser terribile, non ha più fulmine, che esser terribile possa aver. Dov'è la figlia? Dove il mio trono? Non son più padre, più re non sono. La sorte è barbara, non ha più affanno, non ha più fulmine, i cieli grano. Non ha più fulmine, che esser terribile possa per me. Dov'è la figlia? Dov'è il mio trono? La sorte è barbara, i cieli grano. Possa per me. Vede gli stesso nemico papo, che non può farmi più sventurato, e se m'uccide, crude non è, crude non è, che se m'uccide, crude non è. Terribile possa per me.